Al-Furqan. Il discrimine. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Benedetto colui che ha fatto scendere il discrimine sul suo servo, affinché potesse essere un ammonitore per tutti i mondi. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Colui cui appartiene la sovranità dei cieli e della terra, che non si è preso figlio alcuno, che non ha consoci nella sovranità, che ha creato ogni cosa e le ha dato giusta misura. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. E invece si sono presi all'infuori di lui divinità che esse stesse create nulla creano, e che non sono in grado neanche di fare il male o il bene a loro stesse, che non sono padrone né della morte, né della vita, né della resurrezione. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. I miscredenti dicono: tutto questo non è altro che menzogna che costui ha inventato con l'aiuto di un altro popolo. Hanno commesso ingiustizie e falsità. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. E dicono: favole degli antichi che si è fatto scrivere, che gli dettano al mattino e alla sera. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Di: lo ha fatto scendere colui che conosce i segreti dei cieli e della terra. In verità è perdonatore, misericordioso. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. E dicono: ma che inviato è costui che mangia cibo e cammina nei mercati? Perché non è stato fatto scendere un angelo che fosse ammonitore assieme a lui? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Perché non gli viene lanciato un tesoro dal cielo? Non ha neppure un suo giardino di cui mangiare i frutti? Dicono gli ingiusti, voi seguite un uomo stregato. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Guarda in che maniera ti considerano, si sono sviati e non potranno trovare il sentiero. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Benedetto colui che, se vuole, ti concederà cose ancora migliori di queste, giardini in cui scorrono i ruscelli, e ti darà palazzi. Bel kazzabu bis-sa'ah, wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Invece tacciano di menzogna l'ora. Per coloro che tacciano di menzogna allora, abbiamo preparato la fiamma. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. E quando li vedrà da lontano, potranno sentirne la furia e il crepitio. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. E quando, legati insieme, saranno gettati in uno spazio angusto, invocheranno l'annientamento totale. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Sarà detto loro, oggi non invocate l'annientamento una sola volta, ma invocatelo molte volte. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Di, è forse meglio questa fiamma? O il giardino perpetuo che è stato promesso ai timorati come premio e ultima destinazione. Lahum fiha ma yasha'un khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Avranno colà tutto ciò che desidereranno e perpetua dimora, promessa che il tuo Signore manterrà. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ. Il giorno in cui saranno riuniti essi e coloro che adoravano all'infuori di Allah egli dirà a questi ultimi: siete voi che avete sviato questi miei servi o hanno smarrito la via da soli? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Risponderanno: gloria a te, che vantaggio avremmo avuto a scegliere alleati e protettori all'infuori di te? Ma tu colmasti loro e i loro avi di tanta ricchezza di beni che dimenticarono il ricordo di te e furono uomini perduti. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Già hanno smentito quello che dite. Non potrete sfuggire al castigo, né avrete soccorso alcuno. A tutti gli ingiusti daremo un grande castigo. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Prima di te non inviammo alcun messaggero che non mangiasse cibo e non camminasse nei mercati, e designammo alcuni come tentazioni per gli altri. Persevererete? Il tuo Signore tutto osserva. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. E coloro che non sperano di incontrarci dicono: perché non sono stati fatti scendere angeli su di noi? Perché non vediamo il nostro Signore? Hanno riempito di orgoglio le anime loro e travalicato i limiti dell'arroganza. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Il giorno in cui vedranno gli angeli, in quel giorno gli ingiusti non avranno nessuna buona novella. Sarà detto loro: rifugio inaccessibile. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Abbiamo giudicato le loro opere e ne abbiamo fatto polvere dispersa. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. In quel giorno le genti del paradiso avranno il miglior rifugio e il più bel luogo per riposare. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Il giorno in cui le nuvole del cielo si apriranno e scenderanno di discesa gli angeli. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. In quel giorno la vera sovranità apparterrà al compassionevole e sarà un giorno difficile per i miscredenti. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani e dirà: me disgraziato, ah se avessi seguito la via con il messaggero. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Guai a me disgraziato, se non avessi scelto il tale per amico. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Sicuramente mi ha sviato dal monito dopo che mi giunse. In verità Satana è il traditore degli uomini. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Il messaggero dice: Signore, il mio popolo ha in avversione questo Corano. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Ad ogni profeta assegniamo un nemico scelto tra i malvagi. Ti basti il tuo Signore come guida e ausilio. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. I miscredenti dicono: perché il Corano non è stato fatto scendere su di lui in un'unica soluzione? Lo abbiamo invece rivelato in questo modo per rafforzare il tuo cuore e te lo facciamo recitare con cura. Non proporranno alcun interrogativo senza che noi ti forniamo la verità in proposito e la migliore spiegazione. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Coloro che saranno trascinati sui loro volti verso l'inferno, quelli sono coloro che avranno la peggiore delle condizioni, i più sviati dalla retta via. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Già demmo a Mosè la Torah e gli concedemmo suo fratello Aronne come ausilio. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Dicemmo, andate presso il popolo che tacciò di menzogne i segni nostri, e lo colpimmo poi di distruzione totale. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. E il popolo di Noè, quando tacciarono di menzogne i messaggeri, li annegammo e ne facemmo un segno per gli uomini. Abbiamo preparato un castigo doloroso per gli ingiusti. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ricorda gli Ad, i Samud e le genti di Arras e molte altre generazioni intermedie. A tutti loro proponemmo delle metafore e poi li sterminammo totalmente. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Certamente quegli altri sono passati nei pressi della città sulla quale cadde una pioggia di sventura. Non l'han forse vista? No, perché ancora non sperano nella resurrezione. يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Quando ti vedono, non fanno altro che schernirti. È costui che Allah ha mandato come messaggero? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. C'è mancato poco che non ci sviasse dai nostri dèi, se solo non fossimo rimasti perseveranti. Ma presto sapranno, quando vedranno il castigo, chi è il più sviato dalla retta via. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila. Non ha visto quello che ha elevato a divinità le sue passioni? Vuoi forse essere un garante per lui? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Credi che la maggior parte di loro ascolti e comprenda? Non sono altro che animali e ancora più sviati dalla retta via. Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila. Non hai visto come distende l'ombra il tuo Signore? E se avesse voluto l'avrebbe fatta immobile. Invece facemmo del sole il suo riferimento. Summa qabadnahu ilayna qabdan yasira. E poi la prendiamo per ricondurla a noi con facilità. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Egli è colui che della notte ha fatto una veste per voi, del sonno un riposo e ha fatto del giorno un risveglio. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Egli è colui che invia i venti come annuncio che precede la sua misericordia, e facciamo scendere dal cielo un'acqua pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Per rivivificare con essa la terra morta e dissetare molti degli animali e degli uomini che abbiamo creati. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. L'abbiamo distribuita tra loro affinché ricordino. Ma la maggior parte degli uomini rifiutò tutto, eccetto la miscredenza. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Se avessimo voluto, avremmo suscitato un ammonitore in ogni città. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Non obbedire ai miscredenti. Lotta con esso vigorosamente. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Egli è colui che ha fatto confluire le due acque, una dolce e gradevole, l'altra salata e amara, e ha posto tra loro una zona intermedia, una barriera insormontabile. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Egli è colui che dall'acqua ha creato una specie umana e l'ha resa consanguinea e affine. Il tuo Signore è potente. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Adorano all'infuori di Allah ciò che non reca loro né giovamento né danno, Il miscredente sarà sempre alleato dei nemici contro il suo Signore. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Ebbene, noi ti abbiamo inviato solo come nunzio ammonitore. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Di, non vi chiedo ricompensa alcuna, ma solo che, chi lo voglia, segua la via che conduce al suo Signore. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Confida nel vivente che mai non muore, lodalo e glorificalo, e gli basta se stesso nella conoscenza dei peccati dei suoi servi. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Egli è colui che in 6 giorni ha creato i cieli e la terra e quello che vi è fra mezzo, e quindi si è innalzato sul trono, il compassionevole. Chiedi a qualcuno ben informato su di lui. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. E quando si dice loro, prosternatevi al compassionevole, dicono, e cos'è mai il compassionevole? Dovremmo prosternarci a chi tu ci comandi? E la loro ripulsa s'accresce. Tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Benedetto colui che ha posto in cielo le costellazioni, un luminare e una luna che rischiara. Egli è colui che ha stabilito l'alternarsi del giorno e della notte, per chi vuole meditare o essere riconoscente. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. I servi del compassionevole sono coloro che camminano sulla terra con umiltà, e quando gli ignoranti si rivolgono loro, rispondono, pace. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Coloro che passano la notte prosternati e ritti davanti al loro Signore. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Coloro che invocano, Signore, allontana da noi il castigo dell'inferno, che in verità questo è un castigo perpetuo. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Qual tristo rifugio e soggiorno. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Coloro che quando spendono non sono né avari né prodighi, ma si tengono nel giusto mezzo. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Coloro che non invocano altra divinità assieme ad Allah, che non uccidono, se non per giustizia, un'anima che Allah ha reso sacra, e non si danno alla fornicazione. E chi compie tale azioni avrà una punizione. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Avrà castigo raddoppiato nel giorno della resurrezione e vi rimarrà in perpetuo coperto di ignominia. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. A meno che non si penta, creda e operi il bene, che a costoro Allah cambierà le loro cattive azioni in buone. Allah è perdonatore, misericordioso. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Chi si pente e opera il bene, il suo pentimento è verso Allah. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. E sono coloro che non rendono falsa testimonianza e quando passano nei pressi della futilità se ne allontanano con dignità. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Coloro che, quando vengono ammoniti con i versetti del loro Signore, non sono né sordi né ciechi. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. E dicono: Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli, e fai di noi una guida per i timorati di Allah. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون قون فيها تحية وسلاما. Per la loro costanza saranno compensati con il livello più alto del paradiso e saranno ricevuti con l'augurio di pace. خ خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Per rimanervi in perpetuo. Quale splendido rifugio e soggiorno. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Di, il mio Signore non si curerà affatto di voi se non lo invocherete. Ma già tacciaste di menzogna la sua rivelazione, e presto ne subirete le inevitabili conseguenze.